Fare una parola nuova nord, fare una parola nuova sud. Dire, non dire, dire, non dire, dire, non dire, dire, non dire, dire, non dire, dire, non dire, dire, non dire, dire, dire, non dire, dire, non dire, ordire, dire su, dire su, dire su, dire, dire su, su dire, su dire, dire su, dire su, dire su, dire, su dire, su dire, dire su e distire. Siamo a nord, su, più su, più su, siamo a nord, più su, più su, più su, più su, più su, più su, più su, più su, più su, siamo a nord, più su, più su, più su, più su, più su, su, su, su, più su, su, siamo a nord, più su, siamo a nord, più su, siamo a nord, su, il sudore a ore. A nord l'industriale, a sud il maiale. A sud l'industriale, a nord il maiale. A nord il barile, a sud il cortile. A nord il cortile, a sud il barile. A nord lo sfruttatore, a sud il dolore. A nord il dolore, a sud lo sfruttatore. A nord il datore, a sud l'adulatore. A nord l'adulatore, a sud il datore. A nord il capitale, a sud il male. A sud il capitale, a nord il male. A nord l'imperare, a sud l'arare, a sud l'imperare, a nord l'arare, a sud metropolitano, a sud urbano, a sud metropolitano, a nord urbano. Nord. Nord. Nord. Nord. Nord. Nord, nord, nord, sud, nord, nord, nord, nord, nord, nord, nord, nord, nord, nord, nord, nord, nord, nord, nord, nord, nord, nord, nord, nord, nord, nord, nord, nord, nord, nord, nord, No, assurd, rus, no, rus, no, rus, no, rus, nord, no, rus, sud, nord, sud, rus, sud, nord, sud, sud, nord, sud, nord, sud, nord. Candy, Che bello sarebbe che i normanni fossero sudanesi e i sudanesi dessero la mano ai normanni.